si riesce alla radio accesa, lo capisco. Ciao Giulio, buongiorno. Oh, ciao. Tutto bene, sì? Calma, pochi minuti di radio. Sono alla grande, Bruce. Lì, stavo ascoltando la radio, c'era un, per un attimo ho sentito Luca con un portante vino, ma era talmente basso che ho capito poco di quello che dicevo. No, io ho acceso adesso, capito. Mi sono montato, così da oggi sono stato indietro. Non ho capito, non è la radio chiara o tu lì, come mai? Ho passato un po', così va bene. Ehi, così così, non è chiara. Non è la tua radio di solito, solitamente è bella, chiara. No, tutti mi ascoltano bene, c'è un nostro pacchetto, mi ascolti male. Ho un signor Lusciure da tavolo che sta usando, capito? Ah, ho capito, Lusciure sta usando. Ho capito, e vabbè, comunque, meno male già capisco. E allora Tony, adesso c'è quel tempo senza sentirti, capita, forse qualche mesetto. Sì, ha ragione Antonino che dice che il canale dei morti non c'è mai nessuno. Niente, Giulia, ci andavo, non c'era nessuno, spazzolavo e poi chiudevo tutto, capito? Mi guardavo la TV, eccetera, eccetera, ma facevo altre cose. A volte manco accendevo e ho detto, non c'è nessuno. Ecco perché entro poco. Ti dico la stessa cosa, Tony. Anch'io accendevo, sempre silenzio assoluto. Difficilmente riuscivo ad incrociare qualcuno qui, perlomeno, che capitassimo allo stesso orario, invece niente, sempre silenzio assoluto ho fatto, ma ormai tutti si sono staccati definitivamente. L'unica volta che, cioè l'ultima volta che ho modulato sul canale 12 per un paio d'ore, c'era Franco Di Sorso e Gavino, quello di Porto Torres, e basta. Poi da lì in poi non avevo sentito più nessuno. Ecco, non sono tutti e due Sorso, non è Porto Torres e Gavino. E la storia per andare Sorso dopo la fine, quella zona lì. Beh, di preciso io non lo so, dove comunque so che era prima era Porto Torres, no? C'era anche Franco Di Sorso, ho detto. Forse no, non mi sono spiegato bene. Era con Franco Di Sorso che dunque abbiamo fatto dalle 3:30 alle 6 e qualcosa, 6:30. Insomma, una bella modulata sul canale 12, ma poi da quel giorno non avevo più ascoltato nessuno. Ho fatto, ma come mai? Loro modulano sempre sul 12, capito? Perché ho lo spazio, li sento, cambio canale direttamente, che tanto. Non mi va a entrare in quel canale. Ok, non c'è problema con... E quindi niente, Giulio, è sempre nessuno tra. E niente, adesso io giorno 8 ho la visita, mi ricollegare, così almeno si decide di darmi questi benedetti soldini. E che cavolo, sta assicurazione con che lettera. Capita, ancora non ti hanno definito quella storia, quella pratica che c'era in cosa, in boh, non è possibile. Ma quanto sono svegli per prendere il surdica, ma per darvi quanto sono lenti questi. Io non so per quale motivo debba essere così un'assicurazione, non è possibile. Ma cosa c'è? Una causa in corso? Cioè, oppure sono loro che sono talmente tirchi e lenti nel liquidare le persone? Allora, questo non è l'incidente che ho avuto io, è morto, che è successo 2 anni fa, quello mi hanno già liquidato, che me ne sia. Questo quando era caduto il danno, ti capito? C'è un'assicurazione, quindi ci ho testimone, la dottoressa con marito, che sono già speso, che non so cosa loro, mi ha fatto la foto, mi ha chiamato l'ambulanza, eccetera, eccetera. È successo il 2 settembre. Quindi ho chiuso la pratica il 19 di ottobre, quindi novembre, dicembre, gennaio e febbraio, 4 mesi, capito? Allianz, assicurazioni, appagati, e vabbè, comunque. Spero che sia una volta buona, questa è l'ultima. Infatti mi hanno detto che io sono andato all'agenzia in cui mi hanno fatto tutto loro, mi hanno mandato all'ortopedico, mi hanno mandato a fare fisioterapia, eccetera, eccetera. Hanno anticipato tutto loro, adesso la scuola deve pagare a loro, l'ortopedico, che è fisioterapista, l'agenzia è più a me, capito? E quindi niente, ce la prendono col comodo, Giulio. Purtroppo è così, ma detto già all'inizio che passa un po' di tempo perché non è un RC auto. Quindi, vabbè, comunque lì mi fanno il 100%. Mi ha anche spiegato che se io cadevo a Sassari in una buca, il comune di Sassari paga il 50%, mentre invece nell'area del Tanit la paga al 100% perché è un'area privata e c'è il patto di vigilanza, eccetera, eccetera. E poi mi hanno soccorso anche vigilante, quindi mi hanno detto, io te l'ho sempre detto che questi, questo pavimento fa cadere molte persone, gliel'ho sempre detto, ma io lo sai che quando sono caduto io lì hanno tutto giustato. Non è possibile, non è possibile, ragazzo, che uno per essere liquidato da un incidente che ha avuto, che debbano passare tutti questi mesi per essere liquidato. Guarda, è una cosa vergognosa, veramente, guarda, è una cosa vergognosa. Stiamo sempre andando peggio in questa Italia. Così il discorso sanità, non ne parliamo di quello poi, per carità. Sono 5 anni io che sono appresso a loro, cioè sempre facendo visite di controlli. Adesso l'ultima visita, che premesso che io ho sempre avuto l'esenzione, adesso non mi fanno l'ultimo attacco, perché non voglio che la faccia a pagamento. 270 euro l'ultimo attacco che devo fare, che la devo fare il giorno 9 di questo mese, a parte il fatto che sono stato un sacco di tempo, perché sono già 2 mesi in ritardo per questo controllo, non si trovava al posto, adesso sono riuscito a trovare a pagamento, 270 euro devo pagare per farmi una cosa che è di mio diritto, visto che ho l'esenzione, non è possibile, questa Italia sta andando a rotoli proprio. Sì, ma è così Giulio, purtroppo è così, io per fare una visita al cuore devo aspettare 6 mesi, ma certo non vado, anche io ho l'esenzione, non certo che vado io a pagamento, perché buttare 150 euro, no, io aspetto, non me ne frega niente, quindi chi me l'ha chiesta giustamente, il diabetologo sa benissimo che ci vuole tempo, capito? Quindi gli ho anche detto, guardi, non è che lo trovo il posto, l'altra volta addirittura per la visita cardiologica mi hanno mandato il numero e ci sono andato, vabbè, sono sposato, non ci vado più, anche insomma benzina ho trovato, per dirti, no? La volta apposta, anche il gruppo di mandate dice fra 5, 7, 8, 10 mesi, un anno, perché giustamente dice così almeno questo va a pagamento, se le urge, sono tutti d'accordo, è una sanità che fa schifo. Guarda, è veramente vergognoso, ragazzi. È chiaro che poi a un certo momento la gente si stanca, non si cura nemmeno. Adesso i più fortunati, quelli che hanno qualche dollaro, qualche euro in più, magari riescono ancora oggi a farsi fare le visite. Diversamente tu immagini tu quelle povere persone che non hanno risorse sufficienti per poter campare, figurati anche se devono spendere soldi per curarsi. No, non è possibile, guarda, Tony, non è possibile, è veramente vergognoso, guarda, che uno debba essere così. Tu tieni presente che io sono ancora sempre in carico, io sono sempre in carico all'ospedale, dopo che avevo subito l'intervento, eccetera, no? E dunque periodicamente mi hanno dato tutte le date d'oro, ho fatto tutte le visite che ho dovuto fare senza mai saltarne una. Adesso l'ultima di questo momento dovrei farla, cioè avrei dovuto farla all'inizio, proprio all'inizio di gennaio oppure alla fine di dicembre, invece niente, non sono riuscito a trovare posto, spazio, tutto occupato per mesi e mesi e mesi, per cui alla fine loro stessi mi hanno detto, guardi, se lei la deve fare, la vuole fare urgentemente, la faccia a pagamento, perché intanto, guardi, non se ne parla minimo 7-8 mesi ancora, con la fortuna che riesca a trovare il posto, cioè lo spazio libero per poterla fare questa visita. E allora se la faccia a pagamento, se la fa a pagamento, gliela fanno subito, non tanto subito, perché sono già passati 15 giorni, per dirti, no. E dunque sono in attesa per venerdì prossimo praticamente, no? Poi è l'orario bello, allora alle 9, ma con 4 di notte cosa vogliono fare questa visita, ma è una cosa vergognosa, Tony. Per carità, guarda, è una vergogna, sì, purtroppo. Allora io per operarmi 2 anni fa, che sono andato fuori a Lugo a operarmi, ho fatto una risonanza magnetica a Porta Mona e ho pagato 150 euro. Ma ti giuro, non lo sapevo, perché io in posizione non pagavo niente, ma l'ho saputo dopo, ma cioè, vabbè, pazienza, è andata. Allora, adesso invece torno, io dato che c'ho l'esenzione ho pagato una vita le tasse che non si aveva lavorato, la valigetta non me l'ha contenuta, fretta non ne ho, quindi sto andando bene perché l'ultima visita che ho fatto al cuore è ok, quindi le pazienze sto continuando a prenderle, adesso come devo farne, quando me la faccio la visita, e così anche l'assicurazione, e più o poi già sono conservate queste ultime, quando mi arrivano è ok, va bene, non c'è problema. Purtroppo è una gerarchia puzzinosa, brutta, e io ripeto, sto aspettando, mi sa che un giorno o l'altro me ne vado al coso, in Spagna, a Tenerife, perché là si risparmia un bel. Con la mia pensione io ci mangio in ristorante, ci dormo in albergo, a me avanza pure i soldi, perché c'è un'amica mia, si è aperta anche un negozietto, penso un po', sta veramente bene. Sto aspettando un po', e vabbè, purtroppo c'ho questi due cani che piccolini, che sono affezionati, c'ho già 4 anni, se no questo me l'ho già dato via a Giulio. E io non posso regalare questi cani, sono troppo affezionato. Quindi sono ancora in attesa, vediamo un po' cosa succede, se si avvia qualche parente mio, chi che ha la campagna. Come ha preso l'idea, si è venduto la campagna e quindi si può fare punti di pure chimi. Vabbè, vediamo comunque. Sì, comunque è vergognoso, dai, che devi pagare la tasca. Cioè, ma tu ci pensi, cioè 50 euro a livello di vecchio cuneo, insomma, l'ha detto mio, non è che guarda se mi sono esagerati, è tutto aumentato. Però mi risulta la pensione, no, Figli di buona donna. Comunque gli agricoltori stanno facendo bene, quando cominciano a esserci più da mangiare, nei banconi come già sta per mancare, nei supermercati, vedo se si mucia il governo. Comunque dice che la Meloni ha stanziato, non so se sarà 9 miliardi o 5, 10 miliardi, non mi ricordo, non me la metto. Perché giustamente, poveracci, è una vergogna che loro li comprano i pomodori, io te ne dico una lì, tempo fa. I pomodori a 15 centesimi e te li trovi a 2-3 euro, ma stiamo scherzando, aiuta che è tutta una truffa, ragazzi. Sì, sì, sì, ma guarda, è una truffa totale per tutte le cose, ma la cosa più curiosa, sai cosa è, Antonio? Quando mi avevano loro stessi consigliati per fare questa visita, la faccio a pagamento, ho fatto, a te quanto si spende per fare a pagamento? 200 euro, va bene, d'accordo, vuol dire da fare a pagamento, e mi sono trattenuto 3-4 giorni, faccio una prenotazione, chiedo quanto devo pagare, 270 euro, capita, nel giro di 3 giorni è aumentato di 70 euro, e dice l'ospedale, sono soldi che si prende l'ospedale, boh, ma non è possibile. Ma dimmi tu, un povero disgraziato, un povero ragazzo che vive dalla pensione minima, come farebbe a curarsi se non hai qualche budget un pochino discreto in tasca? Non è possibile, Tony, non è possibile, guarda, è veramente vergognoso, ce lo vediamo cosa sta succedendo, per non parlare poi degli agricoltori, dei contadini, poveretti, in tutta Europa stanno facendo scioperi, l'avrei visto anche oggi, ho visto che ci sono dei interruzioni di strada eccetera, perché hanno ragione, queste dell'Europa ci stanno proprio demolendo in tutte le maniere, non è possibile, Tony, non è possibile assolutamente, guarda. La colpa è di questo PD che era Prodi che ci ha messo in mezzo con l'euro e Europa unita, a me non me ne ha fatti nulla, rimaniamo italiani e basta, stavamo così bene, se invece no, certo l'euro, a tutti, perché ci ha fregato, e poi c'era anche vantato Prodi, prima non c'era altro a pagarmi 1500 lire, ora lo paghi 3 euro, che sono 6.000 lire quasi, capito, se pure vantato sto pezzo di merda, vabbè, lo dica. E dice nonostante il disagio delle persone che i trattori stanno bloccando tutto, le persone sono d'accordo con gli allevatori, e hanno ragione, anch'io sono d'accordo con gli allevatori, poveracci, le prendete per la gola, se li paga il prodotto una cazzata, allora lo mettono 2-3 euro, ma stiamo scherzando, è come quello in latte, se trovavano indietro lo buttavano per terra, dice beh, preferisco buttarlo per terra che davano una cazzata, poi se ne facevi in più di latte le mucche, te ne davano latte in più, lo dello la multa, dai, te ne dimentico che come noi, ma non pesante, dai, no, stiamo andando a rotoli, per me succederà qualcosa di grosso se continua così in giugno, e io sono l'uomo più felice del mondo, ma anche una rivoluzione, sarei contentissimo, guarda, è arrivato a questo punto, è una vergogna, loro se ne frega perché i soldi ce li hanno, capito? Non prendo mica lo stipendio di operazione, ancora come gliela butti lunga. Veramente, guarda, è veramente vergognoso. Se uno fa un certo numero di produzione e tu non lo puoi fare, devi buttare via quello che fai in più, perché loro ti obbligano a non farne di più. E così vale per tutto il resto, non solamente per il latte, ma anche per tutte le altre cose che si producono in campagna. Se io posso quindi per dire, coltivare per dire 10 quintali di patate e tu non me lo permetti, per esempio, perché ne vuoi solo 5 quintali, ma per quale motivo? Ma se non è che mondo è mondo, uno ha sempre avuto la possibilità di lavorare il più possibile per guadagnare il più possibile, invece no, loro ti mettono il freno, ti mettono, non è possibile, guarda. Non è possibile, hai ragione come dici tu, conviene andarsene in Spagna come stai dicendo tu, è vero, hai ragione, però purtroppo non tutti lo possono fare, la tua situazione magari è diversa, hai solamente questi due cagnolini per dire e poi hai altre possibilità per potersi spostare, ma è come fai, non tutti possono fare lo stesso discorso, o Tony, assolutamente no, nella maniera più assoluta, sarebbe impossibile per certe persone, ad esempio per me personalmente sarebbe impossibile poter fare una cosa del genere, quello, il discorso è quello anche, se no hai ragione tu, è vantaggiosissimo, certo che è vantaggiosissimo, però non tutti possono avere da quella possibilità, tu fortunatamente se lo vuoi, se lo devi fare, evidentemente lo puoi fare, vai Tony. Certo che lo posso fare, quando voglio. A me chi mi sta prendendo sono solo i cagnolini, mi non hai capito? Quindi, vabbè. Perché io sono poco pensato ai cagnolini. Cioè loro quando avevano due mesi, fate conto, hanno 4 anni. vabbè, è che non ci vuole fare giungle, purtroppo, questa è la vita. Io ripeto, ancora non sto decidendo di partire subito. E io sono d'accordo con gli allevatori e anche i poveri pensionati che prendono la miseria, capito? Io sono il primo a dargli una mano, a fare casino, sciopero, quello o quell'altro, occupare qualcosa, casino rosso. Io dargli una mano ben volentieri, anche se io non ho bisogno, io ti do una mano, allora sì, perché sono una persona solidale e capisco le situazioni. Perché vedo già quanto spendo io, ma c'è io, e quello che non è adesso fa morire, si tira testa duro, o sono quelli che si buttano da Ponte Rosetto, come già è successo, stiamo scherzando, no, uno si è fuori di campo, poi c'è qualche quello, si è incazzato, ufficio delle entrate, l'ha messo in condizioni che non ce la fa più, è andato con la pistola sparata, ha fatto bene, perché ne ha le palle piene di questa Italia puzzinosa, corrotta, per carità, no. Adesso da poco è successo che in Sicilia, a Catania, questi sì egiziani, 5 hanno tenuto un ragazzo e questa ragazza a 13 anni se l'ha violentata. Meloni ha detto che lo Stato c'è, che gliela fanno pagare, adesso vediamo cosa le fanno. Ma io fossi il padre di quella ragazza, l'avrei fatto arrestare e l'avrei ammazzato dentro stesso. Ho capito, ma tra il mio figlio di 13 anni non è che stuprata, ma io ti ammazzo e ti risacco un conto. Ma stiamo scattando e stiamo vivendo. I giudici sono corrotti perché la mafia è lì, perché lo sappiamo. E che cavolo, perché sono sicuro che non si mette il governo in mezzo, i giudici comandano loro e gira gira dopo 1 o 2 mesi lo fanno uscire. Ok, è una vergogna, dai Giulio, ne sentiamo di cotte e crude, è una vergogna, non c'è giustizia, non c'è religione, non c'è santo, non abbiamo niente, siamo proprio allo stato bravo. Io quando faccio qualche lavoro in nero, me lo faccio, ma volentieri, e voi che non mi bussa la porta, dice tu hai lavorato in nero, e me cosa vuoi? Mi vuoi dare i soldi? Ah, mi vuoi fare la multa? Io mi stacco il collo in quel momento, perché io sono molto impulsivo su quei negozi. Ma stiamo scherzando, ma non tentate, ma riprendi giù. Sì, effetti così, Tony, effetti così. Hai già sentito anche stamattina al telegiornale quella ragazzina di Catania, 13 anni, che l'hanno questo branco di delinquenti stranieri che ci sono in qualche comunità da quelle parti, non lo so dove, che sono campati da noi, dai nostri soldi, e poi ti permettono di fare anche queste cose. L'hanno immobilizzato a lui, quel ragazzino di 17 anni in 5, così ha detto la televisione, e poi gli altri a turno hanno violentato questa ragazzina di 13 anni. Hai ragione tu, bisognerebbe andare a casa con un'accetta e tagliargli il collo a queste ragazze così delinquenti. Adesso vediamo che cosa le fanno, cosa vuoi che ti dica, ma non è possibile, guarda. Dimmi tu che uno deve venire da fuori, guarda, se ne togliamo la fame e poi ti metti a delinquere in casa degli altri. È veramente vergognoso, ma io non so cosa devono fare la giustizia italiana. Io secondo me avrei cambiato le leggi, a questi gli avrei dato subito la pena di morte, perché sono delinquenti dalla nascita e finché vivranno saranno sempre delinquenti, non c'è niente da fare, Tony. Guarda, io ammiro Putin, che questo qua ha rubato la pensione a una vecchietta, quell'uomo è sparito, non so che fine abbia fatto. Quindi, lui molte volte dice, io non lo condanno, io lo mando al creatore e poi sarà lui a condannarlo, quindi automaticamente lo si chiama Zedi, e va bene. Ora se ci sono questi personaggi lì in Russia, non penso proprio, assolutamente, perché qua la colpa ce l'ha il governo, sempre, chi entra sono tutti uguali, avrei detto no, tutti fuori questi ex comunità d'Italia, perché l'Africa non ci sta in Italia, nell'Europa, nell'Italia, cioè non Europa, sono tutti occhi e stanno sempre sbarcando, quindi, allora, tutti eliminati, tutti da uno fino all'ultimo, allora dai lavoro agli italiani, non perché non c'è lavoro, c'è casino, e quindi quando poi è tutto libero, che siamo tutti che lavoriamo, in casa anche di più povera, eccetera, eccetera, che dà occupazione, automaticamente di dire qualcheduno, cosa si è venuto a fare, c'è che lavoro, non ce n'è, ma avviati, vuoi per turismo, ok, quanto? Una settimana, 10 giorni e poi riparti, se no ti arrestiamo. Questa è la legge che avrei fatto io. No, ma non entrano più qua. Invece no, siccome la comunità europea, sempre la comunità europea c'è in mezzo mio, Giulio, mi paga l'Italia per prendere questi stronzi. Automaticamente loro fanno quello che vogliono. Dai tutti i soldi che le devono dare a mezzo di questi imbecilli, il governo si media le dirà. Poi il sindaco del posto si prende i soldi, ci mangiano, non gli danno una cazzata, come ho detto mi fuori spacciando, delinquente, quello e quell'altro, capito? Vabbè, è tutto un casino più. Sì, è tutto un giro di, soprattutto di interessi, quello sicuramente. Cioè su tutto c'è sempre il discorso danaro, non ci sono dubbi, questo è vero. Però è veramente una vergogna. Hai visto adesso, hanno fatto uno stanziamento, l'Europa ha fatto uno stanziamento di 50-60 miliardi per l'Ucraina per continuare la guerra. Ma dico io, quei soldi lì, l'Europa non poteva stanziare per la sanità di tutta l'Europa, soprattutto di noi italiani. Invece no, alla guerra, continuano ad ammazzare le persone, boh, non è possibile, cioè, che si possano accettare certe situazioni. E poi dice quando il popolo si gira, ma il popolo è anche troppo bravo, è anche troppo buono, se no se si sarebbe veramente girato in maniera che si dovrebbe, non sarebbero successe forse certe cose. È veramente una vergogna, guarda. Oh, io, soprattutto qua noi italiani siamo quelle persone grazie, che accogliamo tutti tranquillamente, non succede una cosa e il giorno dopo ci dimentichiamo di quello che hanno fatto questi delinquenti che vengono da fuori. È veramente una vergogna, io non capisco come mai non ci sia un'attenzione maggiore a riguardo di tutte queste azioni che fanno queste persone. È veramente vergognoso, Tony. E poi se tu parli così sei un razzista, non lo dico a voce alta, certo che sono razzista, io li odio, se io li trovo 10 di strada in questa strada accelero e faccio strike, perché per quello che stanno combinando è una vergogna. Un'amica mia ha fatto la spesa circa 50 euro, doveva prendere i figli a scuola, mi sa se ripicchio mi viene l'acqua. Ha messo la spesa, correndo nel portone, è andato correndo a prendere il figlio e ritorna alla spesa sparita, hai capito? Questa comunitaria. Meglio questa, quella piangendo, che faceva anche più mangiare per i figli. Questa è l'Italia. rete di cartoni. A questo punto noi siamo anche stanchi di sentire e anche di discutere di queste cose, perché intanto non cambia mai niente. E noi parliamo, però in definitiva alla fine il discorso iniziale è sempre quello. Non possiamo farci niente, noi il popolo non possiamo farci niente, sono le autorità che dovrebbero secondo me intervenire in maniera ferrea, in maniera prepotente e forte, sempre naturalmente stando in base alle leggi, è ovvio, senza mai sacrificare più di tanto le persone, no, questo no, però in base alle leggi dovrebbero intervenire, ma purtroppo a quanto sembra qua siamo un pochino testardi e soprattutto ci dimentichiamo troppo in fretta di quello che questa gente combinano qua. Cosa vuoi che ti dica? Boh, non so cosa dire, Pitoni. Sono cambiate molte leggi in peggio, quindi ci scaldiamo, ci facciamo passare il cattivo, tanto non cambia, noi siamo piccolini, non possiamo fare niente, nel senso che non puoi dire una cosa è fatta, non la puoi fare, perché vai contro la legge, capito? Purtroppo hanno applicato leggi e noi facciamo farci niente, comandano loro. C'è questa in Italia. E infatti è vero con la vignetta che ho visto, prima c'erano gli extracomunitari cercavano della spazzatura per mangiare, adesso ci sono gli italiani che vanno a cercare la spazzatura per mangiare, per vivere, e loro sono belli, nutriti, anche non pagano affitto, non pagano le bocche, cioè ormai ci hanno aperto anche i negozi, ma dimmi tu, la corsa è piena di negozi di questi extracomunitari, è una vergogna. Guarda, tempo fa una persona ha aperto un negozio, una biblioteca al corso, e pagava un milione, c'è la lira, quello con la cora, un milione di affitto al mese. Dopo un anno gli hanno dato il permesso, dopo un anno, questi extracomunitari, neanche un mese o 10, tac, c'è il permesso. E la bacia, e la mangi. No, per carità, è una vergogna giù. Sì, ma io avevo sentito anche alla televisione, anche con documentazioni di immagine, eccetera, che hanno fatto vedere, che prima i ristoratori, per dire, no, quelli del ristorante, trattorie, eccetera, quando avanzavano le cose, a fine giornata quello che avanzavano lo davano ai poveri, ai senza tetto, eccetera. No? Davano, beh, io so che l'hanno proibito che facessero quello, allora cosa fanno? I ristoratori prendono, siccome lì ci sono i cassoni, ci sono, e li buttano dentro i cassoni della Mondezza. E poi fanno la fila i poveretti andare a cercare dai cassoni, a cercare di trovare qualche cibo che sia commestibile. No, non è possibile, ragazzi, perché tu, se uno ha di più e vuole regalarlo alla povera gente, non lo può fare, non capisco per quale motivo. Ti obbligano a buttarlo nel cassone della Mondezza e poi il poveretto, giustamente, avendo necessità, va dentro il cassone e se lo prende da lì. Ma è veramente una porcheria, veramente, guarda. E poi non so se l'hai visto in televisione quando un paio di anni fa, che addirittura le davano, pensai che scommettere che erano troppi, per confezioni di mangiare come le davano all'ospedale, invece sigillati, li buttavano nel cassonetto, loro volevano mangiare proprio come si deve, capito? No, per loro era porcheria, ma stiamo scherzando, che butti mangiare il cassonetto. No. Assolutamente non va bene. Vabbè, purtroppo Giulio, noi dobbiamo sopportare, adesso ti dica, io mi auguro che un domani mi sveglio e c'è qualcuno che vedo che cambia le leggi come Dio comanda. Invece non è così, purtroppo. Ognuno entra che va a mangiare di più e boh. E si costa tanto, adesso vedi, sta andando a calcio la sinistra, fa entrare la torretta. Ma io dico questo, non so, lei sei sinistra, ma tu sinistra, 13 anni governato, 13 anni senza votarti nessuno, ci sei tu a sinistra al governo, ci hai messo la base a ruola, ci hai chiuso in casa, ci hai sequestrato, ci hai fatto faccia fare i vaccini, chi li ha fatti, che comunque niente, buccia, ci avevo capito, e poi ti metterò, cioè se uno usciva mi seguiva anche la vignina, a me me ne bisignino, ma non teme, io sono andato all'ospedale perché io ho rifluso qui da messo con piantarugola con gli acidi che mi sono saliti dallo stomaco. E me ne mi seguito, allora, la forza Antonio mi ha fermato fuori addirittura e mi ha seguito fino al soccorso di Santa Maria. E ho detto, cosa c'è? Dove sta andando? Vuole venire a accompagnarmi? Sto andando all'ospedale, va bene? Gli ho dato anche la voce, ma voi fate la vergogna. E io ho detto, mi ho detto, tenga, aiuto, io non posso continuare a cuoci che sto ben male. Pensi di me che non sono altri. Poi se lo facevi il vaccino, 100 euro di multa. Capito? No. Questa è la sinistra, grazie. Voi avete dei ziganetti, spazia. I vaccini, caso strano. 10 camicie diverse. E cosa ha fatto? 10 vaccini ha fatto qua. Fra un raggio. Ho speranza, il ministro che ha messo a fare questi vaccini obbligatori per legge, ma no, poi i vaccini, io ne ho fatto solo due perché ero obbligato, perché stavo lavorando, aspetta, la giugno. E come me mi sono preso il Covid, come il vaccino per non prenderlo, perché ha dato porcheria, chi ha fatto il terzo e il quarto, piccio, c'è molta gente che è anche morta, questo mi dispiace dirlo, ma è molto parecchi amici miei sono morti, capito? Non si riserva uno di suo governo. Questo Salvini bloccava le navi per questi disgraziati che vengono in Italia, caso strano, adesso il nuovo governo ha ciabato un carattere, non li blocca più, mai, dai. No, è la mia vergogna, guarda, un governo peggio dell'altro, penso solo a mangiare loro e basta, questo non è democrazia, dipende giù. Sì, ok, anche quello poi, non è possibile, guarda, uno, le autorità per poter difendere l'Italia e non lo può fare, si manda al processo, è una cosa vergognosa. E invece quella disgraziata che aveva tentato di schiacciare i nostri agenti, guarda, cioè in mare con la nave, aveva tentato di schiacciare, quella libera gli ha dato anche il premio, l'hanno anche premiata, è una cosa veramente vergognosa. Guarda, sono cose che io, poi parliamo noi tante volte di popoli del terzo mondo. A me mi sembra che noi ci stiamo globalizzando proprio col terzo mondo, come il terzo mondo, non c'è niente da fare. Ormai siamo globalizzati anche noi, anche noi stiamo diventando il terzo mondo, Tony. A quanto pare sì, tu stai parlando di quella capitana della nave tedesca che ha speronato gli finanzieri, se avevo fatto io l'ergastolo me ne hai dato, e ne dato 1 milione l'hai dato, Dio, hai capito? Che vergogna, Gesù, sì, infatti, questo anche grazie ai nostri partiti di opposizione che hanno sempre dato ragione a questi delinquenti, perché per me quelli sono delinquenti, no, non è possibile, guarda, quando mai ragazzi dalla politica, tu sei italiano, ci sono state le elezioni democraticamente fatte, no? Un partito ha vinto, o meglio una destra ha vinto, e allora anche la sinistra dovrebbe cercare di essere appoggiare per poter per il bene della nazione, dell'Italia, invece no, pensano al loro potere, no, dobbiamo comandare noi, dobbiamo comandare. Questa è la mentalità di politica, di certi politici che ci sono in Italia. Ma quando mai, ragazzi, se c'è la destra, la sinistra dovrebbe, anche loro dovrebbero collaborare a cercare di migliorare la situazione dell'Italia, perché la politica in Italia è per difendere gli italiani, per difendere tutta la nazione, e invece no, si difendono loro stessi, cercano di conservarsi la poltrona in maniera più a lungo possibile. È vergognoso veramente, caspita. E così dicasi la stessa cosa, se vince la sinistra dovrebbe essere la destra ad appoggiare e a ragionare, a parlare, a discutere come si deve comportare la nazione intera, sempre per il bene dell'Italia, invece no, loro pensano alla loro poltrona, non c'è niente da fare, per carità, è un discorso che non finirà mai, guarda, non cambierà mai, da decenni, anzi da 80 anni a questa parte, da quando c'è la Repubblica in Italia. Per me basta solo una parola, ci voleva una passata di Mussolini, non dico altro. Ma non l'hai visto tu, a volte fanno un saluto proprio che si faceva una volta e ti denunciano, ti fanno il processo. Bisogna anche fare attenzione a cosa si dice, a cosa si parla e a come ci si comporta. Dimmi tu se queste sono cose da accettare ancora oggi, dopo 80 anni che non esiste più arrivo, non è possibile. Oh Giulio, un attimino, sono al telefono, ci sentiamo in tal caso. Ciao, stai bene. Ok, ciao, ciao Tony, grazie per la chiacchierata, dai, buon pranzo, ci sentiamo, ciao. Lasciamo vedere.